Si nasce imperfetti, limitati e bisognosi. Abbiamo bisogno di tutto, di aria, di cibo, di salute, di pace. Eppure tutte queste cose non le cerchiamo fine a se stesse, ma per un'altra ragione molto più importante. In effetti, quando si ha una ragione molto più valida, siamo anche disposti a non mangiare. Se riteniamo opportuno, cerchiamo il conflitto anziché la pace. Se vi è una ragione importante, siamo anche disposti a perdere la salute anziché conservarla. Mentre se vi è un ideale smisurato, siamo anche disposti a morire. Cosa può esserci di più importante della salute, del cibo, della pace e della vita? Una sola cosa, la felicità. In ogni momento, in ogni situazione, noi cerchiamo, coscientemente o incoscientemente, di essere felici. Chi si comporta bene non è tale perché ami il bene, ma perché è felice di comportarsi in quel modo. Come colui che è malvagio. Si comporta così perché la malvagità gli procura un certo piacere. Anche chi si droga trova in quell'estasi dipendente un piacere che assomiglia alla felicità. Così pure chi corre all'estremo atto del suicidio. Con quel gesto egli cerca la fine di un intenso dolore o tormento pensando di procurarsi la felicità. Possiamo dire che l'aspirazione alla felicità sia parte integrante del nostro essere. Come il sale è parte integrante del mare. Quando si dice mare si dice sale, così quando si dice creatura umana si intende un essere che aspira alla felicità. Compreso questo, possiamo spiegare le motivazioni di ogni parola e comportamento dell'uomo. L'essere umano cerca disperatamente a ogni costo la felicità, e se cerca la felicità significa che non la possiede. Poiché ciò che non si possiede e si desidera ardentemente lo si cerca, dove trovare la felicità? La maggioranza delle persone cerca la felicità nel denaro e per questo la loro esistenza è tesa ad accumulare dei beni, beni che prima o poi dovranno lasciare. Ma anche da uno sguardo sfuggente possiamo notare che le persone ricche possono procurarsi dei piaceri ma non sono felici. Danno la parvenza di essere felici, mostrano per orgoglio di essere felici, ma per lo più sono insoddisfatte, infelici, vivendo noiosamente la loro esistenza. Se il denaro procurasse la felicità, come il fuoco produce inevitabilmente il calore, allora tutti coloro che sono ricchi dovrebbero essere felici. Un solo ricco, infelice, testimonia che il denaro e il benessere non sono la fonte della felicità. Eppure, come falene, gli uomini corrono verso questa falsa felicità procurata dal denaro, per ritrovarsi alla fine vuoti e infelici più che mai. Per molti, la felicità consiste nel possedere una casa di proprietà. Il sogno di migliaia di persone è abitare in una casa dove non si è costretti a pagare un affitto, dove si è liberi di fare quello che si vuole. Ma anche chi ha il piacere di possedere una casa si lamenta per le spese e ha dei problemi che non gli procurano la felicità. Altri ancora cercano la felicità nel piacere del sesso, ed è così che molte donne offrono il loro corpo per ricevere un poco di felicità, ma si ritrovano alla fine più vuote di prima. Più si fa sesso, più si cerca il piacere nel piacere, più ci si trova bisognosi di affetto ed amore. Molti omicidi e suicidi sono ricercati per motivi sessuali, quale l'infedeltà coniugale o l'amore non ricambiato. E ciò dimostra che il sesso non procura la felicità. E chi si butta nel lavoro senza sosta pensando di trovare la felicità nella realizzazione di sé. Per la maggioranza delle persone il lavoro diventa un alibi piacevole per non pensare ai propri impegni e doveri che procurerebbero solo dei fastidi, ma il piacere della fuga dalla realtà non procura la felicità, come non procura la felicità il trascurare una malattia. Infine c'è chi cerca la felicità nel piacere dell'ozio. Ma nessuno di noi è in grado di vivere senza essere occupato. In un'azienda c'era una ragazza sfaticata e il datore di lavoro pensò bene di punirla. Quando andò dal suo principale per chiedere che cosa doveva fare, il datore di lavoro le rispose che non doveva fare nulla. Tutta contenta se ne tornò con piacere sul posto di lavoro, ma dopo alcuni giorni che si trovava sul posto di lavoro senza fare proprio nulla, non resistette e si licenziò. Se l'ozio procurasse la felicità a tutte le persone affaccendate dovrebbero essere infelici, e se lo sono, non è perché sono affaccendate. Dunque, gli uomini cercano in mille modi e in mille maniere di essere felici, purtroppo trovano solo un fugace piacere perché cercano la felicità nel posto sbagliato e nel modo sbagliato. Se il denaro, la casa, il sesso, il lavoro e l'ozio non procurano la felicità, ma solo un certo piacere temporaneo, almeno queste cose insegnano una verità, che il piacere e la felicità sono due cose diverse. Il piacere non è altro che la soddisfazione del nostro corpo, mentre la felicità è la soddisfazione della nostra parte spirituale, e cioè della nostra anima e del nostro spirito. Scambiare il piacere con la felicità è un errore che costa molto caro. Compresa la differenza che esiste tra il piacere e la felicità, si spiega perché le cose materiali non possono renderci felici. Il denaro, una casa, il sesso, il lavoro e l'ozio fanno parte delle cose materiali, che possono agire su ciò che è materiale, e così possono procurare un certo piacere. Ma il piacere ha un limitato campo, perché non può procurare la felicità dell'anima e dello spirito, mentre la felicità può influenzare la parte materiale. Così, la felicità è più importante della soddisfazione del corpo. E questo mette in maggiore evidenza che l'innato desiderio della felicità non solo è un bisogno, ma si rivela un giusto e benefico bisogno. Che la felicità sia più importante del piacere lo dimostra il fatto che molti sono soddisfatti ma non sono felici, mentre esistono persone felici anche se non sono soddisfatti. Si può avere il piacere di una pancia piena, di una buona intesa sessuale, di possedere una bellissima casa o molto denaro ed essere infelici, mentre si può essere privi in tutte queste cose e gioire di felicità. La felicità dunque ha a che fare innanzitutto con la nostra anima e il nostro spirito. E se ciò che è materiale al massimo può arrivare a procurarci il piacere, cosa può saziare la nostra anima e il nostro spirito? Esiste qualcosa che può darci la felicità? Purtroppo no. Non esiste qualcosa in questo mondo che possa darci la felicità, proprio nulla. Nonostante questo però, vi è una speranza, perché anche se non esiste qualcosa in questo mondo che può darci la felicità, che può appagare pienamente l'anima e lo spirito, vi è qualcuno che può risolvere il nostro problema e che possa darci la tanta sospirata felicità. Ci fu un credente circa 3000 anni fa che fece questa richiesta. Molti van dicendo: chi ci farà vedere la prosperità? O Eterno, fa risplendere su di noi la luce del tuo volto. Tu hai messo in cuore più gioia di quella che essi provano, quando il loro grano e il loro mosto abbondano. Salmo 4, 6 a 7. Cercare la prosperità materiale è stata da sempre la prima attività dell'uomo, eppure questo credente non si era lasciato prendere dal vortice della vita. Ed aveva rivolto il suo interesse altrove, e cioè a ciò che appartiene allo spirito. Aveva rivolto una preghiera all'Eterno, al suo Dio. Questo è il primo doveroso passo per chi cerca la felicità, la vera felicità, che procura anche la soddisfazione al corpo. Se vi sono persone che hanno trovato la felicità, significa allora che è possibile trovarla. E questo non è poco. Che cosa può dare l'Eterno, la divinità degli ebrei e dei cristiani, di tanto importante da rendere felice l'uomo? Il Dio creatore ha già dato all'uomo denaro, case, sesso, lavoro e ozio, eppure la sua creatura è solo soddisfatta, ma non felice. Cosa può dare di altro l'Eterno perché l'uomo sia felice? Poiché all'uomo l'Eterno aveva dato tutto ciò che occorreva, all'uomo non rimaneva che ricevere la sola cosa che non possedeva. Dio stesso. Ecco perché il salmista nella sua preghiera fa riferimento alla prosperità e al suo Dio. Mentre tutti cercano dei beni per essere soddisfatti, il salmista invoca il volto dell'Eterno, cioè chiede di poter conoscere chi è Dio e allora, solo allora, ha una gioia tanto grande che non è paragonabile e nessun'altra cosa, neppure chi potrebbe possedere tutte le ricchezze di questo mondo. Purtroppo quando si parla di Dio si pensa ad una persona astratta, si pensa a qualcuno che è inaccessibile, non conoscibile. In parte è vero, ma Dio ha mandato suo figlio sulla terra perché fosse visto e toccato, perché camminasse tra gli uomini e parlasse ai loro cuori. Tra le tante cose importanti che Cristo Gesù ha insegnato, una in particolar modo è da ricordare, e cioè che Egli è venuto per farci conoscere il Dio Trino. Così, se vogliamo conoscere il Dio Trino, è indispensabile conoscere Cristo Gesù. E nel conoscere Gesù Cristo conosciamo la via, la verità e la vita. In definitiva conosciamo la vita eterna, cioè la felicità. Perché se la felicità è la soddisfazione dell'anima e dello spirito, chi pone fede in Cristo quale Salvatore e Signore riceve il perdono di tutti i peccati, riceve lo Spirito Santo alla pace nel cuore, è riconciliato con Dio, con se stesso e con gli uomini. E questa è felicità, quella felicità che soddisfa anche il corpo, quella felicità che tutti cerchiamo e che anche tu stai cercando. Forse fino ad oggi hai cercato la felicità ovunque, senza cercarla in Cristo, ma è giunto il momento per te opportuno di rivolgerti a Cristo in preghiera, di confessare i tuoi peccati non ad un uomo ma a Lui, di accettare che il suo sacrificio sia sufficiente per renderti giusto davanti a Dio, di credere che con un atto di fede ora possiedi la vita eterna. Esiste forse una ragione più grande per essere felice? Ciò che stai cercando è a portata di mano. Dio ha messo nel tuo cuore il grande bisogno della felicità non per lasciarti insoddisfatto ma perché potessi rivolgerti verso di Lui. Se non abbiamo nessun desiderio fisico al quale Dio non abbia già provveduto, non abbiamo neppure il desiderio della felicità invano. La felicità non si ottiene mediante qualcosa ma mediante una persona. Questa persona è Gesù Cristo. Dicembre 2005, Ellero.